Allora, da un certo punto di vista possiamo dire che non c'è il potere effettivo di nessuna parte interna se questa non è in qualche modo assecondata dall'io. Cioè, in pratica potremmo vedere le parti interne come degli scagnozzi dell'io, cioè degli agenti dell'io un po' nascosti. Se guardiamo al mondo greco, era molto chiaro, gli uomini si salvavano dalla schizofrenia, da questa separazione interna, proiettando tutto fuori, gli dèi. E quindi Agamennone può dire ad Achille: eh sì, è vero, ti ho portato via la schiava, ma non sono stato io, è stata una forza che ha agito dentro di me, è stata Atena, tu sai queste cose. Achille dice: sì, conosco, conosco. Bene. Nella modernità è chiaro che non pensiamo più agli dèi, abbiamo scoperto che esiste l'inconscio, abbiamo scoperto che esistono le parti interne, però continuiamo a considerare queste parti come al di fuori della nostra responsabilità. Mi è successo così, ma io che ci trovo? Ecco. E quindi il tema rimane sempre: sono responsabile o no? Chi non è responsabile non è in grado di amare, punto, perché ferisce e poi non rimedia. Allora, prendiamo la rabbia. La rabbia possiamo considerare l'espressione di rabbia, una coppia tra amici o insomma, in qualunque situazione, come l'espressione di un attacco-difesa, che colpisce l'altro. Lo scopo è fermare l'altro, fare del male per fermarlo. Quindi produce dolore all'altro, se non producesse nessun dolore non avrebbe nessun effetto. Allora, se Dio se ne accorge, cosa fa? Chiede scusa. Ah, mi dispiace, se ne accorge. Attenzione, perché l'io che chiede scusa bisogna vedere se è un io pulito oppure se dietro c'è un ego e le scuse vengono dall'ego o comunque non sono sotto il controllo dell'io queste scuse, è nella maschera. E allora cosa succede? Che le scuse di maschera sono solamente un atto di sottomissione, umiliazione. Il vitale di fronte all'umiliazione cosa fa? Reagisce con maggiore rabbia. E questo cosa porta? Un incremento di dolore nell'altro e nella persona stessa che si accorge di continuare a ferire e di fare del male e di farsi del male. Dopo questa escalation, cosa accade? Le vie sono fondamentalmente due: quello di giustificarsi, trovare sempre una buona ragione che dà ragione, per cui si è fatto così. E queste le giustificazioni sono comunque sempre uno strumento di potere, cioè di negazione che io sto esercitando potere. Di negazione della responsabilità, oppure c'è la via della responsabilità. La via della responsabilità è la via del cuore. Se io ho inflitto un dolore, ho un unico intento, quello di togliere il dolore alla persona a cui l'ho generato. Questo è l'unico intento che ho ed è l'intento primario, perché è un intento etico, un intento giusto. Mi devo riprendere ciò che ho dato. Questo avviene grazie all'empatia profonda, io mi rendo conto di cosa l'altro ha vissuto, soffro dentro di me il vissuto dell'altro, come ci insegna anche Rosenberg nella pratica della non violenza, la comunicazione non violenta. Quindi desidero il dolore, desidero togliere il dolore inflitto e quindi utilizzerò parole e azioni per rimediare, fare tutto quello che posso. Naturalmente questo ha un costo. Ha un costo perché vuol dire saper tenere a bada il proprio narcisismo, il proprio orgoglio, il quale salta su. Ecco. Allora, per chiarire bene, il cane che è abituato a mordere gli altri, nel momento in cui lo fermi e dici no, non devi mordere, cosa fa? Diventa pacifico, ma col cavolo, morde te. Quindi nel momento in cui fermiamo le nostre parti aggressive che abbiamo assecondato fino a quel momento, le parti aggressive si rivoltano contro di noi e ci mordono. Da lì deriva un dolore interno che può essere molto forte e le persone hanno tremenda paura di questo. L'io quindi non è che deve rimediare gli ultimi 5 minuti, ma deve rimediare gli ultimi decenni di politiche responsabili, in cui ha dato credito a parti così, si è giustificato e ha levato al suo interno le parti antisociali, aggressive, violente. Naturalmente questo è difficilissimo, perché comporta la capacità di sopportare il dolore necessario, cioè il dolore che la vita ci infligge. Al posto del dolore necessario, che è molto intenso ma breve, preferiamo passare di solito nel dolore nevrotico. Il dolore nevrotico è un dolore che ha un fondo di disperazione perché non finirà mai, crescerà sempre E non ha proprio fine, perché non può finire in quanto non è parte del processo della vita. Cosa intendo con dire dolore che parte del processo della vita? Allora, se tu sbatti, ieri ti è caduta una pietra addosso, hai male al braccio. È parte del dolore della vita, perché tu hai delle braccia che hanno dei nervi che ti mandano in modo doloroso. Fa parte del modo con cui sei costruita te come essere umano, come essere vivente, provare dolore di fronte a uno stimolo fisico. Se non avessi questo, saresti un essere non ben costruito, perché perderesti facilmente un braccio. Quindi il dolore nella vita, quello reale, serve a proteggere, non è una cosa negativa. Ben venga che c'è. Ecco. Il dolore nevrotico, invece, serve solo a coprire altre manifestazioni, che sono la rabbia, la tristezza, la paura, che non c'entrano col processo, del dolore vero e proprio. Sono manifestazioni dell'ego, del modo egoico di osservare il mondo. Bisogna capirmi molto bene questa. Quando si parla di dolore necessario, intendo necessario, inevitabile, data la struttura del vivente. Esiste anche un dolore psicologico che è inevitabile, è parte della struttura del vivente. Muore una persona cara, è giusto, è normale soffrire. Ma questa sofferenza, se non c'è la rabbia, se non c'è la pretesa che non deve accadere, non è nevrotica. E non essendo nevrotica, è sopportabile. E se la persona si tiene in contatto col cuore aperto, pian piano si trasforma in dolcezza, tenerezza e voglia di amare ancora di più le persone che ci sono. Ecco. Mentre invece la persona che si attacca al morena, a colui che è morto, si chiude nei confronti dell'altro e diventa proprio cattivo. Captivus, prigioniero della sua visione impoverita. Ok, quindi. A proposito delle emozioni, vediamo qui ad esempio questo simbolo. Se in una coppia, in una relazione di coppia di qualunque tipo, di amicizia, anche è guidata dal potere, le emozioni di fondo che ci saranno sono per forza di paura, come minimo. Paura, sempre. Perché e la paura cosa porta? A cercare la sicurezza, attraverso instaurare legami, controllare e così via. Perché paura? Perché ogni volta che c'è il potere c'è separazione. C'è separazione. Innanzitutto il proprio interno, tra il proprio cuore, la propria mente, la propria sessualità, il proprio corpo. Quindi non abbiamo un'unità, ma gestiamo un conflitto tremendo tra parti interne di noi che non sappiamo come tenere a bada. E quindi la paura è la paura di impazzire, la paura più forte di tutte, cioè di non saper come fare a gestire sta roba. Poi c'è una separazione io-mondo, e se c'è separazione io-mondo non posso gioire del mondo, delle offerte del mondo. Poi c'è una separazione io-altri, io e così via. Quindi la paura è un'emozione che non può non accompagnarsi alla struttura di potere. Per sciogliere la paura si deve passare dalla struttura di potere all'amore. E lì se ne va. Naturalmente, insieme alla paura, la struttura di potere porta con sé un senso di rabbia. È ovvio, perché io sono arrabbiato di non poter amare, essere pieno, ma dover continuamente controllare, non mi fa mica piacere. Ecco, il potere fa piacere per l'ego, ma non certo per l'anima. Quindi, comunque, la persona prova rabbia e naturalmente prova tristezza perché ha perso un sogno, il sogno di realizzare se stesso la propria anima. Sto parlando in termini molto generali, ma comuni a tutti gli esseri umani. Ecco perché il rimediare a un atto di aggressività che si è compiuto fino in fondo, vedendo il dolore nei confronti dell'altro, così come si fa nel tongle, vorrei inspirare dentro di sé il dolore che si è inflitto, è una pratica trasformativa straordinaria, che costa carissimo a livello di personalità. Ma proprio perché costa così caro, fa sì che quelle parti aggressive pian pianino si riducano la loro intensità. Mentre invece il gioco dell'io è quello di lasciar scatenare le parti aggressive e poi non far nulla. E dice, a me è successo. Ecco. Questo non è un io governo. Questo è un io fantoccio. Gli americani hanno finanziato gli estremisti musulmani in Afghanistan, poi gli estremisti ovviamente si sono ribellati. Quando li ha fermati, si sono ribellati contro gli americani. Ma questo accade per le nostre parti interne. Quindi tutto quello che abbiamo esaminato, sappiamo che ci ritorna. Se abbiamo seminato erbe velenose, ce le dobbiamo tirare fuori tutte. E se ne abbiamo seminate tante, può essere molto pauroso, può essere difficile prendersi questo carico. Perché? ancora non si vede che questo carico, una volta che lo si assume davvero, si ricevono infiniti aiuti. Perché nel momento che si mette nel circuito dell'amore, l'amore cambia completamente l'energia. È un salto quantico. E quindi è il momento il più doloroso momento è il momento di passaggio dal mondo del potere al mondo dell'amore. Nel momento in cui sei passato al mondo dell'amore, anche se hai esercitato il potere infinitamente, poi in breve tempo vai nella gioia.